Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E beh, adesso l'attesa si può toccare, con Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzane in redazione. Oggi Road to Cardiff, ma sul serio, nel senso che mi piacerebbe sapere da voi, 800 24 00 24, poi intervisteremo anche qualche personaggio sull'argomento, se andrete a Cardiff e come ci andrete, perché ci sono vari mezzi, vari modi. Cruciani ci ha raccontato il suo l'altro giorno, che andrà volo per Londra, quindi treno, 2 ore di treno Cardiff, dopo la partita treno alle 2 di notte, ritorno a Londra. Pierluigi Pardo, tu vai? Non vado. Se mi vuoi sapere se rosico, sì, rosico. Perché poi alla fine, quando uno si abitua, sono contento di quello che sto facendo e soprattutto sono contento di andare un po' in vacanza, però quando ti abitui a vedere ai grandi eventi ne senti la mancanza. Certo, intanto da Cardiff amici ci segnalano che, amici che sono già là, ci segnalano che ci sono gigantografie di Bale perfino nei cessi pubblici, si può dire. C'è un tipo di birra, di tutto. Bale non giocherà comunque, ha assicurato ieri Filippo Maria Ricci. Io faccio i complimenti al direttore del Corriere dello Sport, gli auguri, non so cosa si dice in questi casi, Alessandro Vocalelli, buongiorno, perché il Corriere dello Sport oggi, da oggi, ha un vestito tutto nuovo, formato tabloid, prima pagina oggi dedicata a Gigio Donnarumma, intervista a Raiola, Gigio non è schiavo, non è uno schiavo, e titolone, decido io. Ci presenti il nuovo Core Sport, direttore? Sì, innanzitutto grazie per... Prego. Dopo me lo dice Pierre, però io, visto che non va a Cardiff, sono curiosissimo di sapere dove vede la partita, con chi. Allora facciamo outing. La notizia è quella. Grazie per il lancio. Facciamo un Tiki Taka News sabato alle 19. Andremo avanti. Adesso mi devo dire fino a che ora, ma quasi a ridosso del calcio d'inizio, su Italia 1, quindi un prepartita visibile per tutti. E quindi poi in realtà ho invito a casa di amici, ma potrei anche vederla a questo punto a Cologno con i colleghi che stanno qui. Post partita non lo fate? No. No, post partita su Italia 1 no, premium, ovviamente, ma già iniziato a farla, quindi sì, è già in prepartita e no, post partita su Italia 1 non lo facciamo. Quindi facciamo outing, tu direttore invece come la vedrai? Poi mi dici. Io vedo Tiki Taka che fa il lancio della partita. Come sono andato, Piero? Faccio la figura. Vedo Tiki Taka che fa il lancio e poi vedo chiaramente la partita. In redazione. In redazione, con tutti i colleghi, proprio perché tra l'altro c'è un motivo in più questo giornale nuovo, mi fa piacere quello che hai detto, ci stiamo mettendo tanto impegno, tanta passione, è un giornale che cambia non solo nel formato, nella grafica, nella ricerca, diciamo, di queste fotografie particolarmente belle, ma anche nei contenuti, perché oltre a quello che tradizionalmente ha sempre fatto il Corriere dello Sport, abbiamo aggiunto delle sezioni nuove, delle inchieste graffianti, delle memories che mi stanno molto a cuore, forse perché non sono più giovanissimo, però i racconti del passato, delle grandi emozioni del passato, dei grandi eventi del passato mi emozionano sempre, e poi tante altre cose. Insomma, un giornale che innova nella tradizione. Fantastico. Poi a me il formato tabloid fa impazzire, ma questi sono gusti personali, non so, a Pardo. Mi piace. A me piace il nuovo formato, mi piacciono i giornali spagnoli o portoghesi, che sono ancora un filino più piccoli, però insomma siamo nello stesso range, perché credo che siano, diciamo, più maneggevoli No, oggi l'ho letto, pieno di esclusive, pieno di cose di Senti, andiamo su questo titolo, decido io, Donnarumma, cosa farà, cosa dovrebbe fare secondo voi, direttore? Allora, Raiola ci ha detto e ci ha fatto l'elenco delle 11 squadre che hanno chiesto Donnarumma. Sarà che 20 o 30. Dal Manchester, tutte le altre, la Juventus e tutte le altre. Ti dico, io non so come va a finire, ti dico quello che mi auguro io, no? Che pur non essendo tifoso milanista, per cui non ho nessun interesse, diciamo, di parte, però essendo uno innamorato del senso di appartenenza, delle bandiere, della riconoscenza, io credo che uno che sicuramente si è imposto per tutte le sue qualità, ma anche ha avuto comunque dal Milan questa grande opportunità, secondo me mi piacerebbe pensare che almeno questo rinnovo del contratto lo facesse col Milan. Poi le vie del mercato sono infinite, però adesso rimanere al Milan secondo me sarebbe un discorso che non si interrompe, un'emozione che non si interrompe. Io farei un discorso anche meno romantico, non so se Pierluigi condivide. Io rimarrei a Milan anche per questioni di opportunità. Fa il rinnovo, ma non è importantissima alla fine la cifra, rimani lì, sei titolare, bandiera. Puoi fare una grande stagione, hai 18 anni e magari l'anno prossimo tu e il tuo procuratore, o tra due anni, andate all'estero a guadagnare di più. Sì, ma assolutamente sì, o nel frattempo magari il Milan cresce, perché fatto mille cresce. Volte sul Milan, sì. Vale anche per l'Inter, magari nel Milan in questo momento la sensazione è che gli investimenti che pure ci sono magari non hanno la stessa forza economica dell'Inter, non lo so, vedremo. Però, sì, però aspetterei ad andare via, nel senso che potrebbe convenire a tutti. Milan, nel calcio moderno, queste società che hanno così tanti tifosi, così tanto brand, è illogico che possano continuare a faticare per tanti anni. Quindi Milan tornerà sicuramente, se presto o tardi, questo è l'unico vero interrogativo, ma Donnarumma ha il tempo dalla sua parte, quindi sono d'accordo, io rinnoverei e poi fra un paio d'anni o fra un anno comincerò a fare una valutazione diversa. Sì, che poi sì. Le cose non dovessero migliorare, è chiaro che è un portiere da grandissimo club. Però io, Pier, mi sto convincendo che il Milan non fa una squadra per essere competitiva, secondo me fa una squadra per lottare subito per lo scudetto. Infatti, oltretutto sta facendo cose, quindi... Ma non lo so, non sono così convinto. Scudetto mi sembra tanto, direttore. Però se prende Biglia, come praticamente ha già preso, questo lo posso dare quasi con certezza assoluta, se prende Morata, se ha preso Kessié, con i giocatori che c'ha, ha preso Musacchio, si tiene Donnarumma, e altri, insomma, Romagnoli, insomma, guardate. Sì, diciamo che si inserisce con Roma e Napoli. Si inserisce con Roma e Napoli aspettando l'Inter, perché l'Inter farà tanto, attende solo l'ufficializzazione di Spalletti e poi da lì partirà il mercato. Però certamente questo inizio di mercato del Milan è buono. Ha fatto le cose molto in fretta. Sì, ha fatto le cose molto in fretta. Sì, hai ragione. Su questo hai ragione, Pierluigi, anche perché sul Milan avevamo diversi interrogativi sulla nuova proprietà, hanno i soldi, vogliono investire, quanto vogliono investire. Invece mi sembra difficile, direttore, leggere il progetto Roma, perché quello del Napoli insomma, mi pare piuttosto chiaro. Ha fatto un mercato interno, nel senso che ha fatto crollare i tetti salariali e sta rinnovando, oggi notizia di oggi, vicino al rinnovo anche di Goulam, ha rinnovato tutti i suoi giocatori. Rimaniamo, quindi vale quel patto, rimaniamo qui per provare a vincere, anche se la distanza da Juve mi sembra ancora tanta. Del Milan si è detto, dell'Inter si è detto e si dirà, la Roma? Infatti la Roma è il vero interrogativo, perché appunto i milanesi non riesco a sciogliere. Stanno spendendo abbastanza e stanno già comprando. Il Napoli ha un progetto... io ne parlavo ieri con Sarri, lui mi diceva che è una squadra difficilmente migliorabile, addirittura, per siamo già a un ottimo livello. Esatto. E la Roma invece io sento parlare solo di cessioni. L'ultimo nome è Salah, potrebbe Salah essere Liverpool, Rudiger all'Inter, Nainggolan che lo vogliono dappertutto, eccetera eccetera, per cui mi preoccupo molto, insomma, per cui io mi auguro che Di Francesco, che è sicuramente un buon allenatore, un'ottima persona, e non sia però, diciamo, quello che, visto che non sbatte i pugni sul tavolo, allora viene accontentato. No, come dicevo l'altro giorno, mi sembra che sia un po' in atto il sacco di Roma, sia sul fronte Roma che sul fronte Lazio. Per chiudere con il direttore, poi andiamo avanti ovviamente con Pardo, con gli ascoltatori e con tutti gli ospiti che avremo. 800 24 00 24, Road to Cardiff. Quante finali hai visto, direttore? Quale è quella che più ti è rimasta impressa? di Champions intendo. Tante. Diciamo quella del vinta dal Milan con la rivincita sul Liverpool, perché è proprio per questo, perché io poi ho la testa piena di queste cose, che il calcio è comunque una favola, una cosa. Pensare di poter riavere con lo stesso avversario la rivincita che più sognavi dopo l'amarezza più grande, per me sembrava quasi una sceneggiatura di un film. Bravo, per cui, hai ragione. È stato un privilegio, guarda, è stato un privilegio enorme che è stato concesso al Milan, quello di avere la finale due anni dopo. Vero, un privilegio che il destino gli ha concesso. Poi il Milan è stato bravissimo, però poi in campo ci vai e se perdi la seconda volta poi veramente entri ci vai dentro, non è che fa... d'animo sei andato in campo, insomma. Esatto, ci vai accompagnato non dai bambini ma dai fantasmi. Che il Milan aveva dominato la finale persa poi ai rigori, mentre quella del 2-1 alla fine è stata una partita abbastanza equilibrata, risolta più dagli episodi, però questo è il bello del calcio. A proposito di lanci e di cose, oggi alle 19 abbiamo una Ingolan tra gli altri, che invece mi risulta, poi glielo chiederemo, mi risulta che voglia rimanere a tutti i costi. Se lui vuole rimanere, se gli fanno il contratto, magari visto che glielo stanno promettendo da un paio d'anni, sarebbe buona cosa, buona e giusta che glielo facessero, glielo proponessero. Ma io penso, guarda, che la Roma farà partire un paio di giocatori, non di più, e cercherà vedere, ha scelto Monchi perché può essere l'uomo che riesce a fare, certo, che riesce a inventarsi i talenti. Intanto ringrazio il direttore, grazie Alessandro Vocarelli, complimenti. Grazie di nuovo a voi, un abbraccio a tutti, ciao, ciao. Ciao, ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Road to Cardiff. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Road to Cardiff. Road to Cardiff, ma oggi nel senso letterale, mi interessa sapere se ci andrete, come ci andrete, qual è il piano. 800240024 è il numero vero del messaggio, inutile spiegarlo via messaggio, comunque 349 238 6666. Intanto mercato, Biglia vicinissimo al Milan, 22 milioni, e Lazio interessata a Baselli. L'amico di Pierluigi Pardo Ferrero dice che Schick andrà alla Juventus. Che altro? Molto interesse ovviamente su Belotti, per cifre intorno ai 70 milioni, ma credo non possano bastare. Voglio farvi sentire, Pier, sentiamo insieme cosa l'audio messaggio, che è un audio messaggio di Evra alla Juventus. Piccola carica prima del big match. Capitano, ci siamo o no? Gigione, allora, Dio santo! Calma, Max, calma, che Gonzalo te la mette già dentro. Paolo, voglio che la maschera, non lo so dove metti, ma non farmi bestemmiare, ma fai gol come sai fare tu. Mandzukic, non dargli da mangiare per una settimana, lo voglio in modo no good, così cattivo come un guerriero. Bonu, non lo so se ti asciacqui la lavati pure i denti, ti voglio soldato come sempre. Dani, gioca bonito, gioca bonito, tu sei un ombre da po, tu lo sai, caraio. E Alex, ti voglio come un treno, andati indietro, prendi quella faccia, andati indietro. Chiellini, una gorilla voglio, niente passa. E dopo, ragazzi, non farmi piangere trombetta, per favore. Sì, lo so, Sami! Un grandissimo Patrizio Evra. Non lo scopriamo oggi. Che personaggio, però, che personaggio. Personaggione proprio, personaggione. Senti, voglio, prima della Road to Cardiff dei due ospiti che abbiamo in linea, dico già, sono Massimo Zampini e Alessandro Allara, direttore di SNAI. Voglio sapere, invece, voglio farti la stessa domanda che ho fatto prima al direttore del Corriere dello Sport, Vocalelli. Quante finali hai visto, se te lo ricordi, di Champions, e quale ti è rimasta nel cuore? Cioè, negli occhi, nel cuore, nell'emozione? Guarda, io dal 2005 le ho viste tutte fino al 2012, poi sì, non ho visto 2005, Wembley. 6, 7, 8, non 9, ho visto 10, Wembley 11, 2013. 12, sono 8, sì. Wembley nel 2013, mi pare, sì. Poi 2014 che cos'era? 2015 ero a Berlino, sì. 2016 ero a Milano, 2014 cos'era? Lisbona. Non ho visto Lisbona e Wembley, diciamo che sono dal 2005 le vedo tutte, questa è la terza che non vedrò dal posto. Non so, ovviamente. Ti è rimasta dentro? Sono rimaste dentro i 2000 a Liverpool. Beh sì, perché sì. Devo dire che quello che è successo a Milan Liverpool nel 2005, a parte che era la mia prima finale, e avevo lavorato tanti giorni a Liverpool facendo insomma tanti servizi, mi ricordo all'intervallo ci eravamo incontrati con Marco Foroni in quella zona del tunnel, e posso smentire quella insomma, puttanata clamorosa che era venuta fuori sui giocatori del Milan che stavano festeggiando, perché gli spogliatori erano molto vicini e di clamoroso non c'era nulla, perché ero fisicamente lì. Alan Kennedy, giocatore del Liverpool, che era devastato dopo il primo tempo perché il Liverpool stava giocando da schifo, e poi è successo nel secondo tempo una roba che non ha precedenti nella storia del calcio. Allora sentiamo Massimo Zampini, buongiorno. Alessandro Allara, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, la vostra road to Cardiff, ci andrete entrambi? Zampini, come ci vai? Qual è il piano? Allora, domani aereo per Londra, pomeriggio a Londra di riposo e concentrazione in vista del poi cena con amico e un po' di amici, qualcuno riconoscete poi anche voi, ma comunque un po' di amici bianconeri, sì. E serata di festeggiamenti, perché noi juventini abbiamo imparato che è saggio festeggiare il giorno prima della finale, perché spesso poi il giorno della finale, insomma, fai seratona a Londra. Poi si va a Cardiff la mattina dopo, con calma, sveglia verso le 10:30. Con che mezzo? Treno verso le 11:30, arrivo verso l'1:30 da quelle parti, si mangia qualcosa, pomeriggio lì e... Chiedo la stessa cosa ad Alessandro Allara, poi ho una domanda... Torni la sera o dormi lì? Dormo da quelle parti, vicino a lì, a qualche chilometro da lì, e torno domenica da Londra, domenica sera a Londra. Perché è ricco, dorme a Cardiff. Ho trovato un posto a 10 km da lì e spero di raggiungerlo in qualche modo nella notte. Esatto, a 10 km. Esatto. Male che vada a dorso di mulo. Alessandro, invece? Allora, molto simile. Io vado a Londra domani sera, però tardi, quindi atterro alle 11:30 e il giorno dopo un popolarissimo pullman. Sì. Della National Express arrivo circa in contemporanea. Quanto ci metti di più? 3 ore e un quarto. Sì. Arriverò verso le 2, pranzo con un po' di amici e poi partite, poi ho il pullman di ritorno verso Londra all'1 di notte. Quindi notte in arrivi a Londra e poi che succede? No, perché io adesso invece voglio chiedervi, perché siamo perfidi, no, Pierluigi, noi. Sì, come sarà più di me, però, il sì. Più io di te, come sarà il dopo partita? Ma io ne ho vissuti, ve l'ho detto, ve le ho vissute tutte queste finali, e dopo partita di solito non è proprio la cosa più divertente del racconto, però comunque si organizza, dipende come va, ovviamente l'altra parte non lo so come va. Cioè non ci sono ovviamente piani precisi. Esatto, ma soprattutto non l'ho vissuto solo a Roma, e a Roma ovviamente era tutto facile per me organizzare un dopo serata divertente. Mentre là non saprei come andrebbe se vincessimo, so come va, so bene, sono preparato a come va se si perde, si fa comunque una cena tra amici, si rimpianti. Berlino, dai. Esatto. Ci siamo divertiti ugualmente, su. Sì, a Berlino siamo divertiti lo stesso, anche Pierre ha collaborato al divertimento. Sì, ha tirato sul morale a tutti. Esatto. Alessandro invece prende il pullman, quindi da lì ti farai i filmini della partita comunque vada per tutto il viaggio, immagino. Sì, e poi il giorno dopo, se le cose vanno bene, vado a Manchester a vedere il concerto contro il terrore, e se le cose vanno male vado a Manchester a vedere il concerto contro il terrore, quindi più o meno. Comunque, concerto a Manchester il giorno dopo. Questo è scritto con grande uomo di mondo Allara, perché mi piace moltissimo questa cosa, perché in effetti ci ho pensato anch'io. Io penso che chi è lì in zona e ha la possibilità, insomma, domenica c'è la possibilità di partecipare a un evento che secondo me fa bene al cuore, una di quelle cose che ti fa sentire parte di un certo tipo di mondo, ovviamente il fatto che poi è un concerto anche di una di una grande qualità in una location da sogno. Sì, poi lo stato d'animo in cui all'Ara ci andrà sarà è impossibile da capire, da sapere. Anche insomma, delle quote non si può prevedere, facendo una battuta. Ciao ragazzi, buon viaggio. Grazie, ciao. Buon viaggio e in bocca al lupo. Poi Pier, parleremo ovviamente anche con un grande noto ospite dell'aspetto tecnico e tattico della partita. Tu ti aspetti che Allegri cambi qualcosa in vista della finale? Ma io credo che la suggestione tatticamente più interessante sia quella di Dani Alves alto. Sì, mi sembra sia l'unico dubbio. Esatto. La prima volta in una partita così importante era stata trovata a Monte Carlo, lì per lì l'avevamo scambiata quasi per una mossa difensiva o comunque di prudenza in una partita d'andata in trasferta. In realtà poi in quella partita lì è stata una svolta. Devo dire che qualche mese fa c'è stato un momento, non mi ricordo in quale partita, nel quale Dani Alves aveva giocato una posizione di esterno offensivo, e io da un po' che ci pensavo, nel senso, Dani Alves per caratteristiche è un giocatore. Allora, la verità secondo me è questa: se Cuadrado sta a 1000 è preferibile giocare con Cuadrado lì davanti, ma se Cuadrado diventa un giocatore normale o ha un momento di legittimo calo dopo una grande stagione, allora, viste anche le qualità difensive che la Juve può avere dietro con Barzagli, Dani Alves è un giocatore che è libero dai compiti di copertura. Sai, io ho la sensazione che andrà così. Cioè, io mi aspetto Dani Alves alto e Barzaglione in campo. Non lo so, rimane sensazione di ufficiale, non c'è nulla. Maurizio da Caltanissetta, prima di andare a sentire la borsa. Maurizio, dica. Sì, buon pomeriggio a tutti voi, saluto il grande TG, io sono l'esprimatore di Taka. Bravo. Sei un buon gustaio, sei un buon gustaio. No, la saluto anch'io, saluto speciale a Pardo, non normale. No, Carlo, ascoltami, tu sei un mito, perché io sono la trasmissione e l'ascolto sempre. Io quest'ora sono in macchina. Sì. Non faccio altro che sintonizzarmi dagli con anni, voi. Dagli ecco. anni 70, sì, l'ascolti. Dai. Allora, breaking news: Roberto Mancini is the new Zenit coach. Attenzione, breaking news sportiva: Mancini va allo Zenit San Pietroburgo, dove sedeva Spalletti, quindi va a prendere un sacco di rubli, ragazzi. Dica Maurizio. Sì, allora, niente, io sono uno di quelli che sarà a Cardiff, quindi partirò domani, sono riuscito fortunatamente ad organizzare il tutto, ma io vi dico in breve che già dopo Juve-Barcellona, quindi la partita di andata 3-0, io tac, volo e aereo subito, perché avevo il sentore che questa squadra potesse veramente arrivare in fondo quest'anno. Sì, dopo Barcellona, ma hai preso Juve-Barcellona 3-0, l'andata. Hai preso, vabbè, sì. C'erano ancora le semifinali. Però ti posso capire, hai preso pacchetto, quindi il famoso pacchetto. Io ho speso, siccome sapevo che poi col biglietto ci potevano essere problemi, quindi ammortizzare i costi sul volo e hotel poteva ben significare di investire qualcosina in più sul biglietto. Dunque hai preso il biglietto, vai a Londra, no? No, io vado a Bristol. Vai a Bristol. E poi? Vado a Bristol. Io domani alle 13 sarò già a Bristol. Sì. Quindi domani mi vado a godere la partita, quella classica delle vittorie che fanno lì bella all'aperto per tutti. Sì. Quindi vi vado a godere il villaggio UEFA, che è qualcosa di spettacolare per chi non l'avesse mai visto. Sogno di poter fare un gol al portiere, quello elettronico. Vabbè, poi? E poi da lì andiamo a dormire in un posto che si chiama Port Walk, una ventina di chilometri da Cardiff. Quindi, e poi da lì ci godiamo un po' il tutto. Mentre la posso essere indiscreto? Posso? Assolutamente sì. Mi permetti di chiederti quanto ti viene a costare dormire a Port Tratano? Certo, ti dico subito, appunto perché io ho prenotato anzitempo, io dormo con 60 euro a notte in questa località a 20 km da Cardiff. Grande. Dove c'è la mitica signora Eli che mi aspetta a braccio aperto. Ma bella Maurizio, mi viene da dire, 60 euro... Io venderei quasi il posto letto, secondo me, guardai 100 volte oggi. Grazie Maurizio, ci fermiamo per la borsa e poi andiamo avanti. Road to Cardiff. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora Pierluigi, un altro paio di ascoltatori al volo prima di un grande ospite. Antonio, provincia di Genova, buongiorno. Sono Antonio da Milano. Gente, da Milano, mi ha scritto provincia di Genova. Siamo in macchina, in Liguria, sono con... Pasquale e Massimo, dei miei amici, sì? Di Curva Nord dello Stadio. Stiamo andando a Cardiff in macchina. Oggi facciamo un bagno in Costa Azzurra, Juan Le Pen, e sì. domani a mezzogiorno partenza per Birmingham. Da Nizza. Buono. Da Nizza? Sento niente. Soprattutto il bagno, Juan Le Pen. No, ma da Nizza prende il volo? No, va bene, in pratica poi da Birmingham abbiamo preso un'auto e un appartamento hotel per dormire. E sabato mattina siamo a Cardiff per la vecchia signora e speriamo di portare a casa quella cosa lì che non voglio neanche pronunciare. Capito. Io sto già sudando, ho le mani che sono bagnate. Sì, è una cosa. Abitando a Milano, voi mi capite cosa vuol dire per me. Sì. Massimo Torino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Noi partiamo domani, siamo in quattro. Massimo, Roberto e Paolo e Walter che saluto. Partenza Malpensa Gatwick. Sì. Noleggio auto Gatwick Cardiff. Arriviamo venerdì sera. Sì. Ci vediamo alla partita. Sabato dopo partita si ritorna a Londra e poi rientriamo domenica. Sì, quindi notte in macchina. No, abbiamo prenotato hotel a Londra, a Gatwick in ritorno e a Cardiff l'andata di domani sera. Avete prenotato a Cardiff? A 40 km. 40 km? Posso chiedere anche a lei quanto spendete? Quanto 70 costa? Euro, ma abbiamo prenotato anche noi dopo la semifinale. È giusto, perché qui c'è chi ci ha creduto di più. Ha preso l'hotel. Perché adesso trovare un albergo l'avevo già prenotato a novembre. A novembre, sì, perché da settembre che dico che la Juve va in finale quest'anno. Vabbè, lì siamo veramente all'atto di fede. Pierluigi Pardo, salutiamo insieme Pablito Rossi. Come va? Io invece so dove la vedrà Pablito, Sai dove la vedrà? Sul tuo stesso divano. Sul tuo stesso divano a Mediaset. Anche la Juve aveva già prenotato da settembre l'albergo a casa. Beh, adesso non esagerare, non t'allargare. A settembre forse no, però strada facendo, dai. E forse la squadra ci ha creduto di più. A me è sembrata quest'anno una squadra più solida, più forte. Insomma, è un bel gruppo, fa gruppo la Juve, insomma. Sì. Contrariamente al Real che è più individualista, hanno un'anima diversa. Paolo, hanno un'anima diversa. Real ha tanti giocatori che hanno il colpo, la Juventus è qualcosa di, insomma, di diverso, di granitico, di... con grandi qualità però anche perché con, anche, beh, no, se no, se no lì non ci arrivi. Ti ricordi quando Conte, se non sbaglio, qualche anno fa si lamentò a un certo punto del fatto che tutti parlavano soltanto del fatto che era un Trapano, che era una squadra di cemento armato, di acciaio, e c'erano delle qualità. Era vero per quella Juve, figuriamoci per questa. Io penso che certo, l'arrivo di Mandžukić, l'arrivo di Khedira, l'arrivo di Higuain, l'arrivo di Dani Alves ha aumentato di tanto il tasso di apporto di Dybala. E poi c'è stato il salto quando Allegri ha scelto la squadra delle tutte stelle, non possiamo dimenticarlo, il giorno della partita interna con la Lazio. Ripeto, Mancini nuovo allenatore dello Zenit, contratto di 2 anni con opzione per altri 2, quindi il Mancio va in Russia. Paolo, tu la Champions l'hai sfiorata con una delle Juventus più forti di ogni, di ogni epoca, di ogni no? Epoca, sì. Credo una delle delusioni sportive più grandi di tutti i tifosi juventini. Sì, penso proprio di sì, perché quella Juve là era una Juve stratosferica e sembrava andassimo a fare una passeggiata alla fine, davvero. C'era un'aria così, già di festa prima e... Poi siamo stati un mese senza giocare partite vere e quello non ci ha fatto molto bene. Quando sento Allegri che dice no, dobbiamo sempre essere sul pezzo, nel senso che no, è vero questo, perché noi ci siamo veramente completamente rilassati. Quindi tu dici il peccato originale è stata la troppa sicurezza? Adesso a distanza di 35 anni, 34 anni, sì, sostanzialmente sì, perché poi non recuperi più quando sei in campo dopo. È una questione mentale proprio, che tu non riesci più a recuperarla in corsa e noi ci siamo sentiti così, cioè quasi inefficaci rispetto a quell'Hamburgo che non aveva la grande squadra, ma era una squadra comunque che era arrivata in finale con Magath, che ci aveva fatto un gol, aveva ottimi giocatori, ed è stata forse l'unica partita davvero, che l'unica finale che ho perso con la Juve, perché poi abbiamo rivinto la Coppa delle Coppe l'anno dopo, la finale disgraziata. Era la Juventus dei 9 campioni del mondo più Platini e Boniek. Posso far vedere, posso sottolineare una cosa psicologica che fa onore al nostro ospite, con quale ho parlato di questo argomento tante volte, che è, diciamo, la discrezione, la timidezza, quasi la rimozione della tremenda notte dell'Aisel, che rimane ovviamente nel palmarès di un giocatore, però io credo che la sensibilità umana, dopo tutto quello che è successo, ma l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, porti quasi a considerarlo qualcosa che dal punto di vista sportivo, insomma, anche se poi voi in campo avete lottato, non ci mancherebbe altro, no? Non ha avuto molto senso, sì, dal punto di vista sportivo, Paolo. Sì. Penso che non rimanga catalogato nel libro dei brutti ricordi. Purtroppo sì, è una serata tragica su tutti gli aspetti, insomma, quindi poi insomma, così come è andata la vicenda dei morti, le cose, veramente una roba mi torna la pelle d'oca ogni volta parlare di partite, di cose, di coppe in questi casi veramente non esiste, non c'è, insomma, insomma, poi cambiamo argomento, cambiamo argomento invece, andiamo su una cosa. Io sono curioso quasi fino all'essere morboso, come vivevi tu le vigilie, ad esempio la vigilia di Atene me l'hai detto con troppa leggerezza. Sì. La vigilia finale di Coppa del Mondo, il finale ne hai giocate un sacco, ma la notte prima degli esami com'è? Ma dunque, io solitamente ero abbastanza sereno, cioè non ero, c'era alcuni miei compagni che veramente facevano fatica a dormire di notte, insomma, la sentivano forte, non che non la sentissi, anche io sono di finale, senti, insomma, non è che sei uno è del tutto assente, siamo persone, siamo umani, però cercavo sempre di mantenere un autocontrollo, nel senso di non sprecare energie nervose prima, e poi mi dicevo sempre fra di me, insomma, se sono qua poi gioco con compagni talmente forti, siamo bravi, insomma, è inutile stare a pensare tanto prima alle partite, alle gare, no? Ci si concentra, bastano le partite importanti, ci si concentrano 2 ore prima, quando si entra dentro il campo, lo spogliatoio. Nello spogliatoio poi a quel punto lì non vedi l'ora che cominci, vero? Bravo, esatto, cominci proprio a assaporare con la testa, entri dentro la partita, cioè, e sono sufficienti, perché c'è talmente tanta pressione che non serve, non è opportuno pensarci due giorni prima o tre giorni prima. Forse la parte più difficile è quella del riscaldamento, quando non sei lì, ti stai scaldando, va bene, ma non vedi l'ora di vedere la palla al centro e cominciare a giocare, perché a quel punto pensi alla partita. Paolo, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, che come sai dura pochissimo, giusto qualche informazione per chi va a Cardiff e per chi non ci va, e poi facciamo per chiudere un discorso tattico. Convocati. Tutti convocati. Ecco, Paolo Rossi, vorrei chiedere, quanto ho chiesto prima a parte della discussione che stavamo facendo, l'unico dubbio mi pare ci sia nella Juventus e nella testa di Allegri è Dani Alves, la posizione di Dani Alves, quindi l'impiego, se gioca alto, di Barzagli oppure no. Tu come la vedi, Paolo? Ma io vedo una grande battaglia sulle fasce, perché Dani Alves in contrapposizione a Marcelo, mamma mia, è uno scontro tra giganti lì. Io, se potessi togliere un giocatore al Madrid, non tolgo CR7, lo tolgo certamente, ma tolgo Marcelo. Cioè, se mi dicessi togli un giocatore che non fa giocare, Marcelo è un giocatore straordinario, un terzino davvero come io. Sergio Ramos. Tu Sergio Ramos. È una bella, sì, anche se adesso, anche se no, sarà, io, ma però, quell'uomo lì è demoniato, siccome è così presuntuoso che talvolta qualche cosa ti lascia lì dietro, è per troppa presunzione, ci sono momenti nella partita, c'è un paio di momenti durante la partita che lui si assenta o fa il grande, anche se si sente talmente bravo e talmente forte che insomma dietro il Madrid qualcosa ti può concedere. No, io sono banalissimo e toglierei Cristiano Ronaldo massimo della banalità. Invece il massimo della banalità. Invece si toglie Bale e questo nonostante dovesse giocare per decreto, figurati in Galles. Che succede? Però questo è un grande vantaggio per l'assetto tattico del Real Madrid, non certo per il valore del giocatore, Paolino. Certo, il giocatore non si discute. E talvolta è vero che anche alcuni grandi calciatori ogni tanto toglie qualche pensiero, se non ci sono toglie qualche pensiero all'allenatore. Sì, per l'assetto tattico devo dire Zidane è stato bravissimo. Guarda, io l'ho sentito spesso in quest'annata parlare e dà una sicurezza incredibile. Era quello forse che serviva al Real dopo annate con Mourinho, con l'ultimo, adesso mi sfugge il nome, quello del Napoli, Benitez, che hanno fatto veramente insomma molti danni più che devo dire che Zidane è stato grandissimo, cioè è un po' ancelottiano, non trovi? È un po' ancelottiano, bravo, esatto, è bella scuola, è questa, ha fatto il secondo da Ancelotti, ha imparato molto insomma, però dà sicurezza. A me un allenatore così dà certezza, anche le ultime partite insomma, che si preoccupino gli altri, noi ci dobbiamo stare a preoccupare del corso. In questo senso è migliorata forse sotto l'aspetto anche tattico, perché la squadra quest'anno gioca meglio. Continua a pensare sia uno degli allenatori, in confronto a quello che ha fatto, più sottovalutati dell'universo, perché magari perde la Champions e va a casa, mica è sicuro che resti. Tu sai come sono a Madrid. Ci sta? Appena vinto la Liga dopo 5 anni? Voglio dire, ci sta che la perda la Champions. Ah no, ci sta che la perda, certo, non che vada via, no, comunque, no, però sai, via, no, sai, Florentino vuole tutto, vuole subito e vuole, vuole l'universo mondo. Ciao Paolo, ciao, buon lavoro. ci vedrò in TV insieme a Pardo. Sentiamo altri ascoltatori, sono molto curioso. Antonio Pescara, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. È un saluto speciale al professionista Genta questa volta. E non faccio. Bravo. Mi associo. Applausi. Grazie. Allora, qui siamo in fermento perché ormai ci siamo. Siamo in partenza tra qualche ora per Fiumicino. Sì. Arrivo a Londra questa sera. Sì. Siamo 5 famiglie, quindi con bimbi al seguito. 5 famiglie? Sì, quanti siete in tutto? Siamo una trentina. Ma allora, questo è nato tutto quest'estate. È partito l'idea da mio figlio. Ha detto: papà, la prossima estate andiamo a Cardiff. Io non ci stavo neanche pensando, ho detto a Cardiff. E partito da lì, infatti abbiamo prenotato, ho detto male che vada, facciamo un weekend, visto che è cambiato. Ma prenotato quando? Abbiamo prenotato a settembre. Ma roba da matti, in 30? Sì, sì. Abbiamo fatto un giro di telefonate, oggi stiamo organizzando, ci stiamo organizzando per... No, a parte complimenti per il pre-planning. Devo dire che comunque sia, in generale la finale di Champions non è mai un brutto evento, per cui poi alla fine uno certo, magari ha una squadra certo, che spera che ci vada in finale, e in questo caso le possibilità c'erano. Però vedi Pier, uno può pensare ad una gita a Berlino, può pensare ad una gita a Barcellona, può pensare a una gita a Madrid, però pensare alla gita, no, ma non discuto, però gita, la scorsa estate andiamo gita a Cardiff, mi sembra. Ma poi con i biglietti come avete fatto, Antonio? I biglietti, allora, noi siamo abbonati la maggior parte, quindi abbiamo preso, per fortuna siamo riusciti a prendere. Infatti, per esempio, alcune mogli con dei bimbi piccoli non verranno dentro lo stadio, verranno a Cardiff con noi, sì, ma non verranno dentro allo stadio. Quindi in questa maniera abbiamo fatto con i biglietti. Però ci abbiamo creduto, speriamo che vada bene. Soprattutto penso per i bimbi sarà una bella esperienza, perché io l'ho già vissuta quando ero un po' più giovane. Quindi spero per loro sia una bella esperienza, e quindi adesso sono tutti in fermento, dovrò andarli a prendere anche chi ha l'asilo e chi ha la scuola, e adesso partiremo. Mamma orario mia, di partenza 16:30. Che meraviglia, sono storie che riempiono il cuore, Piera. Ci raccontano bambino, ci raccontano, guarda, sono mille cose belle. È bella comunque la partecipazione a un evento, è una cosa fantastica, è bello che la gente voglia far cose in questi tempi così complicati, che ci sia la voglia di continuare a inseguire le passioni, andare a vedere i concerti, andare a teatro, andare a cena, andare a incontrare le persone, andare ovviamente a seguire il calcio. In più il calcio, vabbè, lo sai, è la cosa più bella di tutte per me, per il suo punto di vista. Quindi la finale di Champions è il massimo che ti possa capitare. La finale di Champions con la tua squadra che gioca è però... la finale di Champions con la tua squadra che gioca, che finisce in un certo modo, ecco, manca questa è l'unica incognita rimasta. Ma in ogni caso io penso che sia una di quelle esperienze, soprattutto certo, però curiosito soprattutto il fatto, vabbè, andiamo a vedere la finale di Champions ma a Cardiff. Possiamo discutere mille volte sulla bellezza del Galles, però io non ricordo una finale giocata così ai confini dell'impero, non so tu, perché sai, normalmente poi stadio meraviglioso, il Millennium, la Glasgow, in Scozia, insomma non è che sia una roba poi così esotica. Sono state tante finali di Coppa d'Inghilterra negli anni della ristrutturazione di Wembley. Io ho raccontato un Arsenal-Chelsea nel 2002, perché il giorno dopo c'era Udinese-Juve e Lazio-Inter, il famoso 5 maggio, qui invece il 4 maggio 2002 ci fu questo Arsenal-Chelsea a Wembley. Per tanti anni alla finale si è spostata lì, in questo stadio bellissimo, col tetto che si può chiudere. Si può chiudere, come raccontavamo l'altro giorno, rimane aperto solo quando gioca la nazionale di rugby, perché Dio deve guardarla. E questa è un'altra cosa meravigliosa. Federico, provincia di Milano. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei, dica. No, mi dia anche del tuo, senza problemi. Dimmi. Allora... Ok, perfetto. Allora, anch'io sono in partenza per Cardiff, tutto il tempo di finire di preparare i panini. I panini? Sì, perché si parte in macchina. Si parte in macchina. Allora serve un panino, servono tanti. Ho improvvisato una quindicina di cotolette più o meno. Dunque, cotolette in macchina e via verso Cardiff. Si parte tra poco, passa a Bruxelles, poi... Passa a Bruxelles, si carica un altro Juventino e si va verso Cardiff il giorno seguente. Ok, quindi arrivate lì il giorno della partita? Sì, il 3 mattina si stima arrivo, per il 3 mattina. Il 3 mattina e poi immediato ritorno verso? Poi sì, ritorno, si dorme dove si può e poi ritorno verso Bruxelles Vabbè. E poi niente, poi il giorno dopo si ritorna a Milano. Sì, si dorme dove si può, mi piace molto come immagine in bocca al lupo. Mi piace molto come immagine anche il panino con la cotoletta, a quest'ora visto che non ho pranzato, Pardo, però vabbè. Viaggio on the road, sì, bellissimo anche questo. Bellissimo anche questo, on the road all'avventura. Questo è un altro aspetto molto, molto affascinante. Capisce che stiamo rosicando, Carlo? Come? Capisci un po' che stiamo rosicando, si capisce, sia abbastanza chiaro che ma posso dire, io rosico tutte le volte che tu che ti parlo, no, da certo. Barcellona, no, ma io sono più fortunato al mondo, proprio sono l'ultimo che si può lamentare, però insomma, stiamo, no, ma rosichiamo, però sai, la differenza è che tu stai rosicando adesso, io è una sensazione a cui sono abituato. È una vita, è una sensazione a cui sono assuefatto. Però dei due sei più abituato, vita è più scontata la cosa. Ma io, sì, certo, per me è la norma. Io domenica alle 17 sono qui con Capuano, che peraltro va a Cardiff di ritorno, se lui si era organizzato un viaggio piuttosto avventuroso a Londra, poi macchina. Lo raccontiamo domenica. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Ciao. Allora, dopo il GR continueremo, questi vostri meravigliosi racconti, 800 24 00 24, parleremo di molto altro, compreso magari Mancini che va allo Zenit San Pietroburgo, le panchine che si stanno grosso modo definendo, c'è tanto mercato, ci sarà Emiliano Mondonico e ci sarà il basket. Siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Giugia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giugia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, o vuoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Dunque torniamo in una settimana così bella e importante, non poteva mancare l'intervento di Emiliano Mondonico. Ciao Mondo. Grazie. Ciao. Ma siete stati convocati anche voi ieri sera con la nazionale? A fare cosa? A giocare. A giocare? No, io è una domanda che vado facendo e mi vado facendo anche da solo da tempo. Ma cosa, che senso ha mica volevo con San Marino, scusa? A me hanno giocato tutti, dai, è positivo. Vabbè, ma ha giocato tutti con chi? Ma il giocatore è San Marino è punta ai mondiali, Ho capito che mi stai pigliando per mi permetterei. Pensavo che avessero convocato anche tutti quelli delle radio. Sì, perché, no, io sono stato convocato, ma sì, io sono stato convocato, Emiliano, però sì. Ho dato forfait perché avevo un leggero risentimento muscolare. Oh, capito. Voi siete sempre risentiti. Siamo sempre risentiti. No, ma spiegami che senso ha mica voi con San Marino? Cioè, va bene, chiediamo gli stage, facciamo fuoco e fiamme per trovare spazi per la nazionale e poi si gioca contro San Marino. E chi magari tra 50 anni diranno, vi ricordate l'8-0 San Marino che nazionale? Dai, ma dopo il risultato alla fine ti porta sempre beneficio. Vabbè, dai. No, dai, ho capito che non vuoi rimanere sul filo per non andarci giù col bastone con il randellone di legno di noce. Senti, commentiamo insieme la notizia di giornata prima di chiederti un parere sulla finale. Mancini allo Zenit San Pietroburgo, 2 anni più opzione per altri due, va a farsi ricoprire di grano dai russi come fece Spalletti. Bravo, cosa vuoi che ti dica? Cosa ci sarà? Cioè, sarà il duello Mancini-Carrera? Mancini-Carrera, certo. Noi siamo i più forti di tutti, gli italiani. Vedi che vinciamo dappertutto. Ancelotti vince, Carrera vince, Conte vince. Come ci chiamano all'estero, gli altri rimangono sbigottiti. Magari faremo un po' troppo catenaccio. Sì, però alla fine vinciamo. Ma sai, posso dirti, che cavolo, dimmi. Un mio retropensiero. Allora, metti che Allegri vinca tutto e se ne vada. Questo è un tema che ormai mi sono stufato di affrontare. E uno dice: ma come? La Juventus? Chi potrebbe andare a allenare la Juventus? È chiaro che il piano, se così fosse, sarà già stato preparato, però sai che a me è venuto in mente, per il primo nome potrebbe essere proprio Carrerone. E perché invece potrebbe andare anche Totti a allenare la Juve? Boh, dai, adesso non esagerare. Dai. La Juve. Oh, stiamo parlando della Juve, una squadra che ha vinto 6 scudetti di fila. Ma ho capito, l'impero su cui non tramonta mai il sole. Che giocano a memoria. Una volta a farsi le ossa si andava, non so, in squadre magari che stavano emergendo. Adesso vai alla Juventus, che tanto è facile. Ma che cosa arriva? Alla Juve, se non arrivi primo, arrivi secondo. Sì. Perciò non c'è mica tanto da star lì a menarla. Non sminuirmi Allegri. Assolutamente, è stato bravissimo, perché è arrivato dopo Conte, ha saputo leggere la voglia dei giocatori di essere soprattutto loro vincenti e non sempre l'allenatore basta. È stato tranquillo, è arrivato in punta di piedi, piano piano. Che in punta di piedi? È arrivato sotto un fitto lancio di pietre e uova. Ma lui era in punta di piedi, perché sì, è per forza, la grande qualità di Allegri, che gli scivola tutto addosso, è incredibile. È incredibile veramente come questo collega sia neutro proprio, è neutro contro tutti, l'ho visto incavolato 2 o 3 volte, soprattutto alla fine, quando magari buttava via la giacca, il pantone, però bravo, perché è chiaro che per guidare la Juve bisogna avere una certa personalità. Ecco perché ho detto Totti, non sanno cosa farne. La Roma ha bisogno ancora di trovare le giuste componenti. La Juve, ma pensa che spettacolo, sì. Pensa che dicerie, pensa a voi radio che bim bum bam. Andiamo avanti per dei mesi. Comunque il fatto di Carrera, adesso non lo so come si è lasciato con la Juve, se si è lasciato bene, male, non lo so. No, questo non lo so, se non lo sai tu, figurati. Ecco, però penso che il fatto di Mancini di andare in Russia è importante, però bisogna fare risultato. Sì, certo. Tanti stanno andando, questo è sicuro. Stanno andando o a Coselli o a Dubai o in Russia. Anch'io è venuto qualcuno qui in Cascina. Sì? No, volevo portarmi in Grecia. In Grecia. Allora è venuto qui in Cascina, io gli ho offerto il salame. Sì. E invece questo è stato qui, ha guardato la cascina, è rimasto e lì. Poi, e poi dopo mi ha detto: adesso me ne rendo conto perché lei non vuole venire a allenare in Grecia. Grazie, grazie, buongiorno, è stato un piacere. Capisci, perché ci mancherebbe altro. Senti, Emiliano, tatticamente, allora l'unico dubbio per la Juventus: giocheresti con Dani Alves alto e Barzaglione oppure con Cuadrado? Ma giocano a 4 o a 3? Questo è il dubbio. Io giocherei a 3 perché secondo me la Juve migliore è quella che gioca a 3. Ed è chiaro che a 3 puoi permetterti Dani Alves di metterlo dappertutto. Cioè, ha fatto anche il terzo marcatore, ma sarebbe il suo ruolo specifico quello di poter cavalcare sull'esterno. Esatto. E perciò lui, Cuadrado, penso che sia il loro posto ideale. Perciò nel 3, 5, 2 o 1, 1, a secondo di come la mettiamo, ecco, la Juve riesce a dare il meglio di se stessa. Però è chiaro che nel 3-5-2 non so dove puoi mettere tutti e tre gli attaccanti. Certo, chiaro. Devi giocarne con 2. Chiaro, meglio cambiare meno possibile in questa sì, Juventus, però... anche per non dare segnali negativi né alla squadra né agli avversari. Cioè, cambiare vuol dire, secondo me, prima di una parte così vorrebbe dire avere paura, quindi non credo, Allegri non lo fa di sicuro. No, ma assolutamente, è chiaro che i 3 attaccanti in Italia hanno fatto paura, giustamente, come hai detto te. E quando vai a giocare con Real Madrid, non so se i 3 attaccanti fanno ancora paura, sì, o fa più paura, fa paura la Juventus e Dani Alves. Esatto, fanno paura Alessandro e Dani Alves. Tra l'altro prima abbiamo sentito Pardo e Paolino Rossi, che per fare i fenomeni hanno detto, Paolo Rossi ha detto, io al Real Madrid toglierei Marcelo, e Pardo ha detto io toglierei Sergio Ramos, e io ho detto ragazzi, siete simpatici, però io voglio fare il banale, gli levo Cristiano Ronaldo tutta la vita. Non so. No, dopo, dopo se c'è anche un altro che c'ha un po' di fastidio, per esempio Benzema, ecco, state fuori, poi dopo giochiamo, possiamo giocare a 3-4 come. Ma sai, ma dopo ognuno inventa, no? Inventa Marcelo, dai, va bene, Marcelo. Marcelo che fa la differenza, tira via, non so, qualcuno in mezzo al campo, oppure là davanti questi che... A Paolo che, Rossi la pensa così, lui, bisogna avere Marcelo. Non la pensa così. Assolutamente. Allora, chiamalo, sai, allora. Sai cosa c'è? Che devono stupire. E allora va benissimo così, però non la pensano così, dammi retta. Dimmi una cosa. Dimmi una cosa invece. Saltiamo di palo in frasca come piace fare a noi. Spalletti, sì, cosa farà l'Inter? Come disegnerà l'Inter? Che giocatori vorrà? Cosa succederà lì? Spalletti, secondo me, all'Inter vorrà una squadra per puntare ai primi posti. Anche perché il grano ce l'hanno. Ecco, è il grano ce l'hanno che non mi ha ancora convinto, sai, sia al Milan che all'Inter. Questo grano ce l'hanno, va bom, speriamo, perché ce ne voglie molto di grano, non basta un prato. No, di grano turco. Io avevo qualche dubbio sul grano del Milan che si sta dissipando perché sono partiti pronti via, boom, e stanno facendo colpi su colpi. All'Inter, Suning, loro il grano ce l'hanno, Emiliano. Allora è chiaro che Spalletti vuol fare una squadra. Vuol fare una squadra in grado di duellare proprio con le grandi, ma nel vero senso della parola. Ho letto che voleva qualche giocatore della Roma, però ho letto anche che quelli della Roma vorrebbero rimanere a Roma. E perciò vedremo un po' che cosa succederà. Io penso che l'anno prossimo per l'Inter e per Milan, il prossimo campionato, non sarà di quelli stupefacenti. Anche perché nel mio modo di vedere e di pensare, penso che l'Atalanta debba fare gli stessi risultati di quest'anno, arrivare quarta, fare la Champion e mettere tutti quanti a piacere. Sarebbe bello, però l'Atalanta, che si è venduta al Milan, adesso Conti in partenza probabilmente pure per il Milan, giustamente. Dietro degli altri. Però avrai letto, no? Lo so, ma la grandezza dell'Atalanta che si sta sai qual è la cosa bella? Che si sta strutturando finalmente da società, non dico all'avanguardia, ma contemporanea, perché uso sempre questa parola, ha preso lo stadio, rifà lo stadio, poi lascia pure vendere questo o quell'altro giocatore, ma l'Atalanta sta creando. È stato un esempio per tutte le squadre di provincia. L'Atalanta è arrivata quarta, ma ti dirò che il quarto posto era, con quello che ha fatto, era il risultato minimo, perché è stata una squadra incredibile. E gli altri dovrebbero capire che non sempre il risultato è casuale, ma che spesso e volentieri è il frutto di un lavoro specifico. Sì, di un pensiero, di un'idea. Ecco perché io andrei nettamente così a vedere l'Atalanta. Ti lascio domare i cani, grazie Emiliano. No, stanno rincorrendo uno in bici che è passato di qua. Porca miseria, stai attento che non lo prendano. Però la strada qui è chiusa, sai, quei pensionati che si... Occhio, vai a dare un'occhiata, corri a dare un'occhiata prima che gli saltano addosso. Stanno tornando indietro, penso che gli abbia preso un polpaccino. Ciao, che meraviglia, ragazzi. Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io voglio dire che sarò anch'io uno dei 18.000 tifosi che stanotte partirà per Cardiff. Partirò da Verona a mezzanotte a Londra, poi va a Londra. No, ho preso il pacchetto del bus con la Juventus perché sono abbonato. Ha preso il pacchetto. Quindi che succede con il pacchetto? Arriva a Verona alle 2, alle 2 si parte verso direzione Cardiff e l'orario di arrivo a Cardiff è mezzogiorno di sabato. Quindi proprio in pullman. Sì, sono 25 ore di pullman, sono andata. Le altre 25 Sì, se le fa, se le facciamo sabato a mezzanotte, l'orario previsto è l'una, due di domenica. Quindi si fa... dorme in pullman, tutti in pullman? Sì, sì, tutti in pullman, si vive tutti, in pullman, baraccati in pullman, esatto. E via, esatto. E via. Io così penso come che tempi. È una cosa anche bella, il divertimento è anche il pre-partita, il viaggio, tutto quanto, dopo quando sei là è no, il problema importante è il ritorno, sa, già, non mi faccio vedere delle cose, perché può essere qualcosa. Guarda, sono andato due anni fa a Berlino, è stata una cosa, si partiva già con la destinazione. Lo so, ma quest'anno, sì, quest'anno posso dire che noi abbiamo gli juventini, la squadra è un 60, noi 40, noi, anche perché è quest'anno è l'ultimo anno di Buffon, secondo mio avviso, che no, può alzare la Champions questo ragazzo. Questo non lo so, perché Buffon, quante volte abbiamo detto è l'ultimo mondiale, l'ultima volta che può alzare la Champions. Su Buffon non ci mettevano sul fuoco. Buon viaggio, caro Giacomo, a lei e sì, a tutti quelli che sono sul pullman, ascoltate Radio 24, sì. Forza Juve, sa. E ascoltate Radio 24, strada facendo, tanto ne avete di strada da fare. Stefano. Buonasera. Allora, io anche parto per Cardiff, ma niente di molto fantasioso, perché prenderò anche un pacchetto e volo con l'aereo. Però io chiamavo per un'altra cosa, perché adesso, siccome ci state tutti osannando noi tifosi della Juventus, come partiamo e dove andiamo, mi avrebbe fatto piacere questa telefonata anche dopo una domenica di febbraio, nel quale per 20 minuti dopo Juve-Inter Paolo Liguori ha insultato la Juventus e i tifosi della Juve. L'avete lasciato parlare lei e Pardo per 20 minuti senza dire nulla, senza contestare. Ognuno ha le sue opinioni. Abbiamo detto di non condividere. Abbiamo chiaramente detto di non condividere. No. Però le opinioni si rispettano, quella è di chiunque. Si rispettano se espresse civilmente, e poi ci si può serenamente dissociare. Stefano, buon viaggio verso Cardiff e in bocca al lupo. Fabio, buongiorno. Buongiorno, grande gente, buongiorno. Allora, tutti che vanno a Cardiff, io premetto che a me piacerebbe andare a Auckland questa sera, perché inizia un'altra partita di quelle da non perdere, secondo me. Per i veri intenditori, adoro il calcio, resta uno sport che praticato è il massimo, ma visto è un po' più eccitante la pallacanestro. Sa cosa facciamo? Sa cosa facciamo? Sentiamo. Le presento il dottor professor grande ufficiale Marco Crespi. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao Marco. Capito, Fabio, che andrebbe a Auckland? Anch'io vorrei andare a Auckland. Non ci andremo né io né te. Tu sei impegnato nel commento dei playoff di italiani e delle finali NBA, credo, no? In questo momento solo in futuro sono dei playoff, per i prossimi giorni sono dei playoff italiani. Quindi quegli altri li guardi. Partiamo da lì, dai playoff NBA. Io penso che veramente varrebbe la pena non solo andare, ma anche svegliarsi la notte o registrare la partita e vederla in un momento libero della giornata, che per ognuno è diversa, perché credo che sia la partita, la finale tra il gruppo di giocatori più forti, e che è arrivata a giocare la finale con un 12-0, avendo media di differenza per ogni vittoria 16 punti, contro il giocatore più forte. Senti, io penso che io e te siamo cresciuti con Michael Jordan, però LeBron sorpassa Michael Jordan. No, Marco. Sì. No. Marco, non dire così. No, non dire così. Devo dire, è perché è soltanto un discorso, Carlo, lo dico sottovoce, è soltanto un discorso d'Italia. Cioè, sa fare d'Italia, quasi le stesse cose Michael Jordan, in più, certo, 10 centimetri in più. Però il carisma di quell'altro, la leggenda di quell'altro. Io penso che LeBron, l'ho visto da ragazzino, dal vivo alle Olimpiadi di Atene, era la metà di quello che ha adesso, era il penultimo del gruppo, anche se giocava. A te non hanno fatto una bellissima figura, però io credo che a uno come te, e ti conosco bene, veder giocare Cleveland faccia venire mal di stomaco, mentre veder giocare i Bulls di Michael Jordan, io ti confesso, li guardo ancora adesso qualche volta. Beh, penso che anche gli allenatori siano leggermente diversi per carisma e visioni, però a maggior ragione la grandezza di LeBron James è che fa un gruppo di giocatori normale, qualcuno dice il gruppo dei suoi amici, fa una squadra che in questo momento è la campione e sì, può sfidare il gruppo dei più forti, perché lui è oltre. È oltre, lasciamo stare la qualità della pallacanestro che giocano, cioè vero, no. Però se tu giochi con LeBron James e talmente illumina il gioco, non puoi giocare come Golden State, per esempio. No, certo, non puoi giocare come Golden State, che pure di stelle ne ha tante, però ha una pallacanestro un po' migliore, cioè che ci mette più d'accordo. Steve Kerr passa come adesso fatto sul politico, come Obama sorpassa Trump. Ecco. Facciamo così, anche se Steve Kerr. Quanto pesa la mancanza in panchina dell'allenatore, Marco? Ma credo che sia comunque una presenza, perché non so, però anche la presenza fisica. Sicuramente se ci saranno dei momenti di difficoltà, pesa, perché la serenità e gli occhi che comunicano il Steve Kerr nel momento di piccola sul campo, anche se sai che magari in spogliatoio non ci sono. Un applauso lo facciamo insieme a Manu Ginobili, no? Adesso sta facendo un po' il Totti, perché magari torna un altro anno di contratto. Speriamo che non faccia come Totti, perché Totti penso si sia ritirato. Voi siete molto calciofili, poi dico la mia, con 2 anni di ritardo. Lo sai. Ma sai, questi ragazzi, il vero problema filosofico, lasciami usare un parolone, è che non sanno cosa fare da grandi. E quindi. Sì, però la vita te lo impone poi di diventare grande in un certo senso. Manu, speriamo di ricordarlo così, con quell'ultimo applauso, no? È stato l'ultimo applauso, e soprattutto quell'ultima stoppata su Harden, penso che sia quell'ultima stoppata su Harden deve essere la copertina bravissimo, finale del bravissimo, esatto. Come doveva essere quel canestro di Michael Jordan, aiuta, e non poi la rivisitazione, esatto, che non esatto, voglio neanche ricordare ai Wizard. Infatti, per chiudere, Marco, stai raccontando i playoff italiani, ti ho visto anche ieri sera a Trento, dove Milano ha fatto un'altra figuraccia. Milano potrebbe andare fuori, io dico sarebbe una cosa clamorosa, perché è un peso massimo che fa a botte con i bambini e potrebbe essere messo KO, e a quel punto lo scudetto andrebbe in una città che non ha mai visto. Sì, penso che Milano le prime due gare era stata veramente povera, una prestazione povera, e Trento ne aveva approfittato. Dopo gara 3, quando Milano ha vinto 20 punti, credo che ieri Milano sicuramente insufficiente da tutti i punti di vista, nervoso, mentale, fisico e di appartenenza al prodotto, ma devo dire, sottolineare, perché poi bisogna sottolineare anche le cose belle, ieri Trento ha fatto una partita con quegli occhi di sfida che ma no, va ma raccontata. Ma quando, va Marco, raccontata. Lo so, però quando vedi che gli altri arrivano sempre primi su ogni palla vagante, me lo insegni tu, che sei un professore. No? C'è un problema. C'è un problema. Ragazzi, Houston, abbiamo un problema. Abbiamo un problema bello grosso. Ciao Marco, a presto. Ciao Carlo. Ciao, ti abbraccio forte. Grazie Marco Crespi. Giorgio Diogo, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ragazzi, domani ore 14, presenti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.